www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la luce dell'alba tarda a manifestarsi, Cappa e Drago aspettano sotto la pioggia. Drago, però cosa facciamo? Aspettiamo che smetta, cosa facciamo? E poi? E poi vediamo, tanto adesso piove. Appunto, ma dopo? Dopo e dopo, no? Adesso piove, quindi non possiamo far niente, Cappa. Ma perché quando piove il mondo si ferma? Non riesco a capirlo, a Milano quando piove sembra che con l'acqua scenda giù anche droga pesante. Code, incidenti, gente che si incazza. Ma sai perché? Perché non siamo ancora veramente abituati al fatto che dal cielo scenda giù l'acqua. Ma come abituati? Perché quando piove si dice che c'è brutto tempo, quindi si dà per scontato che il bel tempo sia quando non piove, giusto? Vabbè, ma che scoperta. Però pensaci, se non piove siamo nella normalità. Se piove invece entriamo nella anormalità. Quindi la nostra parte animale registra la pioggia come un evento esterno spiacevole, predisponendosi all'aggressività o, nel migliore dei casi, alla malinconia. Infatti aspettiamo che smetta. Sì, vabbè, però adesso su con la vita, Cappa, eh? No, piove. La mia parte animale mi rende malinconico. L'hai detto tu. Non è così per tutti, eh? No, per me sì. Perché? Qualche problema? No. No, perché se hai un problema possiamo risolverlo subito, Drago. Un problema? Vieni fuori, te lo faccio vedere io il problema, eh? Calmati, Cappa, no, cosa c'è? No, non mi calmo. Cosa vuol dire calmati? Ti sembra uno che si può calmare? Ma intanto, nei disertati sotterranei della fabbrica di polli, dove l'aria è spessa come una bistecca alla fiorentina, avvengono cose che nessun cervello umano potrebbe riuscire a comprendere. Cose come le avventure de... La cavia da laboratorio! Questo mondo sta andando in una direzione che non mi prevede, per cui comincio a definire i miei contorni corporali ed etici quali quelli di un emarginato. Io sono fuori, perché non posso stare dentro, perché se il dentro è fatto di queste cose, non mi ci sta. Vedi, Joao, i grassoni al giorno d'oggi sono degli emarginati, hai capito? Joao, ma dove sei? Io ho fame. Eccoti, sì, ma fatti vedere, no? Sai che ho appena infartato, così mi spavento, no? Mamma mia, come sei piccolo, non ti si vede neanche? Allora, adesso forse puoi mangiare qualcosa, Pericoli non dovrebbero più essercene. Tra 10 giorni c'è la tua data di scadenza, no? E peserai 3 scarsi, forse. Ma se ho fame? Sì, ho capito che hai fame. Però almeno così non ti macerano più, no? Non sei contento, no? A proposito, prima ti ho detto che se vuoi puoi anche mangiare. Però, fossi in te non lo farei. Aspetterei ancora un po'. Perché a questo punto è meglio strafare, no? Hai fatto 30, fai 31. Infatti ho fame. Ho capito, ma vuoi diventare obeso che poi ti ridono dietro tutti? No. Ecco, allora fai un piccolo sforzo. Ma io ho fame. Ma io fama guai, ho tanta fama guai, e me ne andrò alle Hawaii a fare il surf. Crap. È mai successo che non smettesse mai più di piovere? Ai tempi di Noè, sì. Cioè, poi basta, solo ai tempi di Noè? Sì, forse anche ai tempi di Amoghele. Ma chi è Amoghele? Infatti, chi è Amoghele? Ce lo stiamo chiedendo da tempo. Chi è Amoghele? Amoghele? Ma di dov'è Amoghele? Ma chi è? Amoghele. La fabbrica dei polli. Stamattina ho dovuto girare per casa a tentoni perché non riuscivo a aprire gli occhi, erano tutti impastati. Hai capito? Infatti me ne hanno fatte di tutti i colori mia moglie e mia figlia prima che io riacquisissi la possibilità di vedere. Ma mi hanno fatto di tutto. Mi hanno rubato i soldi dal portafogli, mi hanno spezzato la carta di credito, tutti i dispetti, perché non potevo vedere, capito? Administrador delegado, de somos gratos que cada dia nessa fábrica é carnaval. Administrador delegado, de somos gratos que cada dia nessa fábrica é carnaval. Cada dia nessa fábrica é carnaval. Cada dia nessa fábrica é carnaval. And the animals suffer. Sì, però poi ha smesso di piovere. Sì. E allora perché oggi non smette? Perché? Perché una perturbazione atlantica sta interessando la penisola con precipitazioni a carattere temporalesco sulle regioni settentrionali. Ma se questa perturbazione non finisse mai? Ma non lo so, questo dovresti chiederlo a Bernacca. Buonasera. Ma Bernacca è morto. È morto. Allora a Baroni. A chi? Baroni, quello coi baffi, quello venuto dopo Bernacca. Buonasera, guardate che bella immagine del satellite Meteosat 4. Oppure a Caroselli. Chi? Caroselli, quello con la barba venuto dopo Baroni. A tutti buonasera. Tutta l'Europa è sotto il maltempo. E loro lo possono sapere. Eh beh, certo più di me. Però se ti fidi te lo dico io, tra poco smette. Il pleut, c'est malheureux, il pleut. Depuis ce matin, il veut s'emparer de mon être, sans paraître malhonnête. Di Blade Runner, per esempio, però non smetteva mai di piovere. Era un film, però. Anche ai tempi di quel libro. Quale libro? Quel libro scritto da quel baffone che abita a Cuba. Un libro che pioveva sempre. All'equatore piove tutti i giorni, alla sera. No, ma lì pioveva sempre anche di giorno, di notte. Però poi anche in quel libro a un certo punto smetteva di piovere. Pare di sì, mi pare dopo una dozzina d'anni. Vabbè, consolante. Allora, mi svegli nel 2019? Ok. Buonanotte. Buonanotte a te. Che cosa succederà adesso? Pioverà fino al 2019. E se così fosse, assisteremo al crollo delle vendite al dettaglio di creme abbronzanti e occhiali da sole. E poi, chi è Amoghele? Non tormentatevi, è sufficiente aspettare fino a domani, a mezzanotte, su Radio 3, per il prossimo impermeabilizzato allestimento de... La fabbrica di polli. La Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it.